Dottor colesterolo, dottora Valedo. Allora, il povero Alberto da Varese aspetta praticamente dall'altra parte della trasmissione, però lui stoico, temerario, paziente è lì. Sono il re della zona grigia. Dottor Bertuzzi, lei sta bene? Perfetto, benissimo. Ecco, qua abbiamo un po' di calduccio, ma insomma facciamo rete, stiamo bene insieme. Respizzi lo vedremo anche al Salone del Risparmio. Ce lo portiamo? Dottor Respizzi, sì. Le facciamo un invito. Ma che piace spendere, mica risparmiare. Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. E ancora buongiorno da Cuore Denari, ancora oggi in diretta dal Salone del Risparmio. Ormai noi ci sentiamo a casa, vero? Eh sì, è vero. D'altronde tu sei quasi un po' a casa perché abiti qua dietro, a quattro passi, ma anche se fossimo stati più lontani, so che ormai tu sei così allenata perché ti sposti sempre a piedi, nessuna distanza ti fa più paura, giusto? È la verità. È vero, hai scelto è vero. Il cammino al posto della palestra. Una scelta risparmiosa. Assolutamente. Perché non si tirano fuori abbonamenti o altro, e comunque vantaggiosa per la linea e per la salute. Sì, guarda Deborah, io ho fatto, come si dice, ho svoltato, ho lasciato la macchina sotto casa e vado di piedi. E sarà per questa mia sensibilità nei confronti del cammino che io sponsorizzo, e lo sappiamo in tutte le puntate, e come alternativa anche alla palestra, che mi ha molto colpito il titolo di una conferenza che si svolge proprio oggi al Salone del Risparmio, che si intitola "Quando la palestra fa male al portafoglio". Sì. E io sono andata a vedere tra i relatori, me lo immaginavo, ma ho avuto conferma che non sono presenti medici sportivi, personal trainer, coach, come il titolo della conferenza potrebbe fare immaginare, ma esperti di finanza comportamentale. E ci siamo quindi permessi di chiedere a uno dei relatori, il professor Duccio Martelli, che è uno appunto dei relatori, ricercatore di economia, di intermediazione finanziaria, degli intermediari finanziari. Va benissimo. Il professore è qua che sorride sornione, gli ho sbagliato un po' la qualifica, ma in fondo ho capito. Buongiorno. Abbiamo chiesto al professor Martelli di venire qui in carne e ossa e lui ha accettato il nostro invito, ha fatto quattro passi. Sì, una scala. Ed eccolo qui, bello come il sole. Buongiorno. La ringrazio per il complimento, buongiorno a tutti e buongiorno e grazie per l'invito. Professore, le abbiamo fatto fare un po' di moto. Lei ha accettato con piacere il nostro invito, ma lei di che palestra parlerà? Ma noi parleremo di due tipi di palestre, il luogo fisico dove appunto fare movimento, ma soprattutto parleremo di un luogo astratto dove costruire una forma mentale e abituarci a risparmiare, soprattutto in un'ottica di medio e lungo termine. Un classico esempio e errore che spesso noi commettiamo e che vorrei magari chiedere ai nostri ascoltatori è questo: se conoscono magari i familiari o amici che si iscrivono in palestra solitamente ad inizio settembre per... magari approfittando degli abbonamenti non fortemente scontati che i gestori applicano in quel periodo, e poi dopo soli 2 o 3 mesi abbandonano la palestra perché magari il sacrificio di sudare, dover farsi la doccia, dedicare del tempo all'attività fisica anziché al proprio lavoro o alla propria famiglia, no? Portano a fare un bilancio pro contro dove la bilancia purtroppo pende su quest'ultimo, sebbene ovviamente l'attività fisica sia... Per cui ribadiamo la domanda da rivolgere ai nostri ascoltatori: o voi o parenti, conoscenti, amici vi siete, come dire, resi protagonisti di questa avventura, iscrizione in palestra a settembre per poi mollare lì dopo un mese, 2 mesi o anche prima tante volte, no? Professor Martelli, ho detto tutto correttamente? Assolutamente. Quindi perfetto. Invito queste persone a restare certamente in ascolto. E allora sa sicuramente di che cosa parla il professor Martelli, il nostro ospite che avevamo già invitato e ci aveva già detto che lui non risparmia, lui piace spendere. Su qualunque tema si sarebbe cimentato con magari lui. Spendere anche i soldi della palestra. Buongiorno professor Respizzi, responsabile del Dipartimento di Riabilitazione e Recupero Funzionale di Humanitas. Il professor Martelli ha messo un po' il coltello nella piaga, è vero, ci si iscrive in palestra e poi spesso non si va. Io ho pagato fior fiori di palestra alle mie figlie, adesso non pago più niente, dico ragazze, camminate. Il primo sms disse io sempre, e non so chi sia, però insomma già la risposta è chiara. È un classico, e aggiungerei anche come spesa il certificato medico che spesso va presentato in palestra. E sono 40 euro, quindi glielo dico già. Minimo, ecco, 40 ecco, euro. Ecco. Quindi sono molti costi, molti soldi investiti in una cosa assolutamente fallace, perché purtroppo la compliance, la capacità di essere aderenti a questo tipo di abitudini di vita è molto complessa, è molto difficile. La vita quotidiana ci porta fuori, ci siamo porta a fare un po' pigri. Siamo pigri, oggi fa freddo, domani piove, e quindi pian pianino abbandoniamo questa cosa senza avere un vantaggio. C'è chi sceglie delle cose delle alternative, e per chi ha scelto il calcetto giallo, di cui parleremo nel corso della trasmissione. Per i visitatori del Salone del Risparmio vogliamo segnalare che qui, proprio davanti allo stand, alla postazione, anzi si dice, di Radio 24, abbiamo il piacere di avere il dottor Lorenzo Boldrini, perché vi sta aspettando. Lui è un medico di isokinetica, esperto di riabilitazione sportiva, e si mette a disposizione dei visitatori del Salone del Risparmio che vengano a salutare le conduttrici di Cuore Denari e che magari giocano a calcetto, perché le possano... conduttrici o... Le conduttrici, lei dice il soggetto non si capiva, sì. Anche noi giochiamo a calcetto. Ah sì? Bene, certo. Ah, sì. Lo scopro ora. E, in modo che possano continuare a giocare a calcetto a lungo, perché senza farsi male alla caviglia, poi ne avete giocate con gli amici, poi ne avete sempre una, quindi rivolgetevi pure alla postazione di Radio 24. Benissimo, allora oggi, se non avete capito, ci alleniamo, e come succede spesso anche in palestra, quando iniziamo un qualunque programma di fitness l'importante è fare il primo passo, d'altronde chi ben comincia è a metà dell'opera. Allora, professor Martelli tra poco ci darà consigli utili per aiutarci a fare scelte di risparmio di lungo termine, lo ricordiamo ancora il grande tema che anima il Salone del Risparmio di quest'anno. Noi vogliamo partire dai comportamenti di tutti i giorni per testare un po' il nostro/vostro punto di partenza. Raccontateci con un tweet all'account @cuoredenari qual è stata nell'ultimo mese la scelta di risparmio che avete fatto. Potete farlo naturalmente anche chiamandoci all'800 24 00 24, scrivendoci sms o su Facebook, come volete. Per esempio, vi portate al lavoro il pranzo da casa? Comprate solo le cose in offerta? Avete smesso di fumare? Qua altro che risparmio, ma anche la salute è un grandissimo beneficio. Mettete da parte le monetine avanzate del resto senza perderle nelle tasche o nelle borse? Io le metto nella chiavetta del caffè, come Nicoletta sa. Avete rinegoziato la tariffa del telefono, le bollette della luce? La rosa è molto ampia, quindi potete sbizzarrirvi. Dottor Martelli, professor Martelli, oggi non la risparmieremo, dovrà scegliere i tre tweet, i tre messaggi degli ascoltatori più risparmiosi, che poi riceveranno un libro della biblioteca di Cuore Denari. In base a quale criterio li sceglierà? Beh, considerati i temi della puntata odierna e del luogo dove ci troviamo, credo di optare per quei suggerimenti che presentano un impatto ambivalente, sia ovviamente un risparmio dal punto di vista finanziario, ma soprattutto un impatto dal punto di vista psicologico, che possa aiutare queste persone a creare proprio una sana abitudine al risparmio anche nel medio e lungo termine, non nell'immediato. Certo. Professor Martelli, lei lo sa bene che ci sono molte famiglie che si trovano in difficoltà, e fare delle scelte di risparmio anche minime le mette un po' in una condizione di conflitto, perché siamo tutti totalmente consapevoli del fatto di quanto sia importante risparmiare, stiamo stressando tutti sul tema della previdenza di lungo termine, ma qualche volta la coperta, anzi molto spesso oggi, è troppo corta, quindi qualche volta non è solamente una questione di fatica, il risparmio è comunque anche una questione di testa. E come possiamo incoraggiare un po' le famiglie che alla fine del mese fanno anche un po' fatica ad arrivarci? Sì, esattamente, è proprio così. Ovviamente, se escludiamo le situazioni in cui non è possibile per motivi oggettivi risparmiare, nella maggior parte dei casi l'assenza di risparmio deriva solitamente da una mancanza di un atteggiamento corretto verso lo stesso. Il risparmio, specie quello di medio-lungo termine, quindi quello previdenziale in primis, è visto dagli individui solo come un ostacolo e quindi un costo, perché impedisce di effettuare ulteriori spese a livello corrente. Tuttavia, quello che i soggetti non percepiscono sono i vantaggi che questo porterà poi, una volta che il risparmio si tramuta in un introito. Allora, io vorrei vorrei già leggere i primi messaggi che sono arrivati, perché sono molto divertenti ma anche utili. Allora, Francesca da Bergamo dice: io sono una runner, ma in questo inverno piovoso ho dovuto cedere alla palestra, altrimenti non avrei corso più, ma che noia la palestra. E in questo la capisco, perché il tapirulan è veramente noiosissimo anche per me. Io infatti faccio i corsi per divertirmi un po' con altri compagni. Io ho due sole palestre in 20 anni senza mai smettere, e sono due solo perché mi sono trasferita, altrimenti sarebbe stata solo una, il nostro Fante di Picche. Sono Lau da Como, vado tutte le sere in palestra a fare i corsi e l'abbonamento me lo ha regalato il mio compagno, così mi lavo in palestra e non uso l'acqua di casa. Ecco come ha fatto la sua scelta di risparmio. Vedi, una cosa risparmiosa. Quindi non potrei disertare. Se qualcosa vi blocca, se non riuscite a convincervi di una scelta, chiamateci all'800 24 00 24 e raccontateci, perché a volte chiedere il consiglio è il primo passo per darsi una mossa. Professor Martelli, lei mi ha tratto in inganno con questo titolo sulla palestra. Io avevo sperato fino all'ultimo che la palestra, proprio intesa come attività fisica, occasione di benessere, entrasse anche al Salone del Risparmio. E secondo me ci poteva stare, dottor Respizzi, no? Perché chi fa attività fisica e la fa usando la testa, quindi senza eccessi, risparmia un sacco di acciacchi e molti li previene. Quindi, tra l'altro, noi abbiamo anche anticipato che si può fare sport spendendo poco, pensa alla corsa, alla camminata, al calcetto, e quindi all'attività sportiva non solo in palestra ma anche fuori dalla palestra. Noi abbiamo deciso di farla entrare al Salone del Risparmio, dove parleremo, e l'abbiamo anticipato, anche di calcetto, e dove proprio anche parlando di attività fisica riusciremo a darvi il vostro indice di salute. Ma voi restate con noi anche collegati con il nostro numero verde, perché il dottor Respizzi non vi potrà far muovere fisicamente, ma vi potrà, attraverso una serie di domande e di indicazioni, chiarirvi e darvi il vostro indice di salute, mettervi in grado di calcolarlo. Dottor Respizzi, noi lo diciamo sempre, l'attività fisica è un ottimo investimento, è un investimento che può farci anche risparmiare una serie di problemi di salute nel breve e nel lungo periodo. Assolutamente, l'attività fisica va vissuta come lo strumento principale di prevenzione primaria delle malattie, quindi tutto ciò che accade prima che una malattia si sviluppi. Sì. Quando la malattia ormai c'è, i costi sono elevatissimi, e in questo momento storico in cui le risorse sono molto modeste, è molto difficile. Tant'è che a livello mondiale si ragiona ormai in termini di una buona medicina con una spesa consapevole. Quindi ormai si parla di medicina di tipo sostenibile, perché negli anni scorsi si è sprecato anche molto, facendo molti esami inutili. Allora, se proviamo a rimetterci dalla parte del malato, il malato non vuole fare tanti esami, vuole fare quelli che servono. Certo. Non è che vuol passare delle giornate in ospedale a fare indagini. Anche perché non è tanto divertente. Appunto, non è una cosa molto bella. E quindi se noi riusciamo ad anticipare molto i tempi, a fare in modo, banalmente, con l'esercizio fisico, quindi con qualcosa che è gratuito, che ci ha donato la natura, riusciamo a ridurre le malattie e riduciamo quindi la spesa sanitaria globalmente. Certo. Senta, dottor Respizzi, tra l'altro noi che vogliamo agganciarci un po' al tema del Salone del Risparmio, che è il lungo termine, vero Deborah? Certo. Finalmente l'ho capito dopo tre dopo perché, ma non dire così, che lo sapete. Parleremo anche dei tempi. E allora, c'è chi fa attività fisica, si mette adesso per raggiungere risultati in tempi brevi. Dottor Respizzi, lei lo sa meglio di me, la famosa prova costume, anche lei ci proverà, ma infatti, anche se non ne ha bisogno. Faccio un piccolo inciso: prima Martelli diceva si iscrivono a settembre per l'estate successiva. Io vi assicuro che la palestra la frequento, molti si iscrivono a maggio pensando di andare in spiaggia a giugno con un fisico veramente al top. Ecco, e allora invece c'è chi invece si iscrive per tempo, inizia o continua, no, a fare attività fisica investendo in stile di vita, perché vuole continuare a stare bene. Allora, dottor Respizzi, a lei toccherà oggi, e lo chiediamo ai nostri ascoltatori, dire che cosa volete fare, tempi brevi, tempi medi, tempi lunghi, e il dottor Respizzi ci darà delle indicazioni. Quindi chiediamo anche ai nostri ascoltatori di chiamarci per dirci se stanno iniziando a pensare alla prova costume, quindi stanno cercando l'attività fisica per migliorare, per dimagrire rapidamente, oppure se sono degli sportivi amatoriali, quindi si allenano per poter coltivare con sicurezza e grande soddisfazione lo sport del cuore. Dottor Respizzi. Ma io direi che in questo caso il paragone con il risparmio economico è identico, cioè si risparmia un euro alla volta, non 100 milioni di euro alla volta. E quindi è difficile pensare che in tempi molto brevi si possano avere degli ottimi risultati. La prevenzione primaria è una goccia ogni giorno, è risparmiarsi ogni giorno un pochino, è fare le scale tutti i giorni, non prendere l'ascensore. Quindi è un'attività molto lunga. Sì, però dottor Respizzi, ci dia un contentino, capito, no, sì, Deborah? Siamo, siamo a marzo, da qui a luglio. Ecco, due chiletti che non sono male, che qualche volta fanno la differenza allacciando i pantaloni. Uno sfilamento di cosce. Per carità. Anche perché siamo ancora a marzo, quindi un pochino non possiamo avere... Dice che tre, quattro mesi è un tempo giusto per fare un ritocchino adeguato. Se uno invece vuole avere un risultato a lunga distanza, deve impegnarsi molto di più e costantemente. Intanto lei poi ci darà un programma per questi tre mesi che noi possiamo mettere sulla pagina di Cuore Denari, dove le nostre amiche andranno a cliccare, si troveranno i consigli del dottor Respizzi e voilà, saremo magnifiche. Ecco, esatto. Come Marta, allora, che ci chiama da Parma. Prima di sentire Marta da Parma, Nicola dalla provincia di Pistoia, Alessio da Reggio Emilia, solo un istante di pazienza perché un'altra domanda al professor Martelli voglio farla, che non è contemplata nella scaletta ma a sorpresa. Professor Martelli, volevo chiederle, anche a chi risparmia molto, qualche volta inconsapevolmente spreca, perché magari in una eccessiva diversificazione, che è la grande filosofia che noi cerchiamo sempre di così trasmettere ai nostri ascoltatori, anche con Nicoletta ci scherziamo molto, ma in realtà per evitare troppi rischi è bene che il portafoglio di investimento venga diversificato, ma in realtà bisogna stare attenti anche a non diversificarlo troppo, perché si rischia di sprecare in quel senso, in commissioni, in costi di magari prodotti di investimento che non sono adeguati per noi, polverizzando troppo il nostro risparmio. Che dice? Quello è verissimo, soprattutto ritengo che il rischio di polverizzare il risparmio sia quando, diciamo, si è accumulato un bel gruzzoletto, perché gestire un'elevata ammontare di liquidità è molto rischioso se l'investitore non è, come dire, da un punto di vista psicologico molto solido, perché si trova un'elevata liquidità, quindi magari dice perché non cambio l'auto, oppure magari mi posso permettere una vacanza extra. Quindi i rischi si hanno più sul fronte dello sperpero, fra virgolette, del risparmio, perché è difficile salire la montagna ma è molto facile ovviamente la discesa, piuttosto che nella diversificazione. Quello sia un impatto, tuttavia con i prodotti oggigiorno a disposizione credo sia anche possibile, ed è anche possibile diversificare in maniera molto maggiore rispetto al passato, mantenendo comunque le commissioni, i costi sotto controllo. Insomma, un attimo che la formica mi diventa una cicala. Mamma mia, guarda, dobbiamo sempre tenere le antenne dritte. Marta da Parma, buongiorno, chiaramente la prima ascoltatrice a cui diamo spazio è una donna, perché a noi piace farlo. Marta, buongiorno. Buongiorno signorina Rosciani, complimenti perché è preparatissima. E ha molte, molta proprietà di linguaggio anche. Grazie Marta, ci dica un po', allora lei gira molto in bici, vedo. Qui a Parma giriamo moltissimo in Emilia in bicicletta e noi andiamo, sì, l'auto la uso solo per uscire dalla città o per fare le spese nei grandi magazzini. E volevo dire, siccome io non ho mai amato le palestre e non posso fare ginnastica perché soffro da sempre di una sciatalgia, vorrei chiedere soltanto quanta bicicletta dovrei fare, perché abito vicino al Parco Ducale, tra l'altro di qui di fronte all'università, quanta bicicletta dovrei fare per trarne beneficio muscolare quotidianamente, ecco. Per avere insomma una tonificazione che si veda, dottor Respizzi. Allora, dottor Respizzi, Marta non possiamo mandarla a giocare a calcetto, ma invitiamo i giocatori a calcetto all'ascolto a chiamarci all'800 24 00 24. Marta invece, che vuole andare in bici? Questa è una cosa molto bella. Nelle città di provincia spessissimo, soprattutto in pianura padana, si va in giro in bicicletta, è una cosa molto favorevole. Sì? Io direi che almeno mezz'ora al giorno ha un buon passo. Sì, ha una buona pedalata. Un ritmo e così di pedalata. Marta l'abbiamo sistemata. Allora, che cosa facciamo? Mercati. Mercati, perfetto. Dopodiché andremo a Pistoia per sentire Nicola, di nuovo in Emilia Romagna per sentire Alessio da Reggio Emilia. Adesso invece vi tocca sentire un po' cosa sta succedendo oggi sui mercati finanziari. Cuore e denari. Spiri Gonzale, ritorna da me. Spiri Gonzale, non lasciarmi mai più. È stato un tempo lento, lento, lento, lento, lento. È solo un gioco lento, lento, lento, lento, lento. Ma dove le troveranno queste canzoni. Sono bravi, eh? Lenti 800 24 00 24, veloci 800 24 00 24. Siamo tornati dai mercati, siamo qua con il professor Martelli e il dottor Respizzi, un esperto di finanza comportamentale e un fisiatra, accomunati da una parola: allenamento. E qui al Salone del Risparmio può essere considerato una vera e propria palestra di allenamento per i risparmiatori. Esatto, e gli ascoltatori tra l'altro hanno preso al balzo l'occasione che abbiamo dato questa mattina di scriverci quali sono le nuove abitudini che hanno adottato anche nello stile di vita per risparmiare un po', e stamattina sottoporremo poi queste novità nella loro vita al giudizio dei nostri ospiti. Direi di sentirne già qualcuno. C'è Alessio da Reggio Emilia, che è un bancario. Dai, Alessio. Io già ero qua un po' interessata per capire che cosa avesse deciso di fare magari con i suoi clienti, Alessio, e invece vedo che le novità riguardano la sua vita. Buongiorno. Buongiorno, ciao. Sì, io ho smesso di fare la colazione al bar con i colleghi, ma la faccio a casa con la moglie. Ecco. Bravo, Alessio. E cosa mangi? Ecco, tra l'altro, ci dica un po'. Ecco, infatti, sono passato dalla classica, dal classico cornetto con, non so, la crema o quello che è, sì, a 5 biscotti secchi, continuando il mio allenamento di calcetto con la partita tutte le settimane. Spero di andare alla prova costume un po' meglio io. Ecco, Alessio, però intanto mi introduca le proteine a colazione, perché sennò qua i nostri nutrizionisti... E un po' di il pane integrale. Ma dottor Respizzi, il nostro Alessio gioca a calcetto. Ecco. Gli dia due indicazioni. Funziona come una palestra? Assolutamente sì, per fortuna funziona come una palestra. Bisogna però allenarsi. Quindi il rischio che corrono spesso i nostri ascoltatori, che vanno a giocare il giovedì sera scatenati, si picchiano, ma non sono preparati, quindi bisogna stare un po' attenti nella prevenzione ancora una volta. Tra l'altro, nella virtuale competizione di cui volevamo parlare, abbiamo già Alessio che è nella squadra degli ammogliati, perché tradizionalmente... Scapoli ammogliati, è un classico, esatto. Direi che è proprio un classico. Fino a che età giocano a calcetto? 50, 55, cose così, è pericolosissimi. E sono pericolosi. Nicola, buongiorno dalla provincia di Pistoia, e poi Maria Teresa da Bergamo. Nicola, buongiorno. Sì, buongiorno. Tanto grazie di avermi richiamato. Io sono il gestore di un centro fitness, quindi mi sono sentito inevitabilmente chiamato in causa. Sì, volevo intervenire brevemente sul discorso che avete fatto voi all'inizio dell'abbandono, cioè della gente che a settembre si iscrive e poi noi la perdiamo e anche loro si perdono. Secondo me questo deriva da tre errori strategici. Uno, sono già i centri fitness che sbagliano proponendo più strategie di abbonamento che non di allenamento. E poi la frontiera di un centro fitness è motivare le persone oltre che allenarle, perché quando uno abbandona, abbandona per un deficit motivazionale. Infatti la persona che viene in genere è una persona che non sa neanche molto spesso cosa vuole, e quindi anche noi siamo in difficoltà a disegnargli un profilo di allenamento, perché più che riconoscere i loro problemi corporei dobbiamo riconoscere quelle che sono i loro bisogni e le loro esigenze dal punto di vista psicologico. Proprio come nel risparmio, Nicola, quindi la ringrazio per aver sottolineato questo aspetto, un po' allenarsi anche per obiettivi. E poi il terzo punto? Il terzo punto è che nelle tutte le strategie di allenamento che avete citato anche voi c'è un grande assente che non viene mai menzionato, che è l'allenamento di base della forza generale. Tutte le persone, se giochino a calcetto, che vadino in bicicletta, che vadino a correre, fanno tutti attività solo di continuum aerobico a basso livello, mentre nessuno fa mai i protocolli generali di forza, e la forza è la prima capacità che si deve allenare, perché chi è forte forse diventerà resistente, ma chi è resistente non diventerà mai forte, e quindi le persone vanno incontro a infortuni, a fallimenti, a delusioni, proprio perché non lavorano la forza generale. E la forza generale non c'è motivazione, mi scusi Nicola, non c'è motivazione, non c'è metodo. E cosa sono questi protocolli generali di forza? Dottor Respizzi, Nicola ha introdotto un concetto molto importante. Noi siamo spesso sbilanciati nel nostro allenamento, privilegiando l'attività aerobica a sfavore di, a discapito di quella anaerobica, che invece hanno un ruolo che è sinergico. Assolutamente, non siamo proprio più abituati, da buoni sedentari come siamo nella nostra società, quasi mai usiamo la forza. È sufficiente usare i muscoli pochissimo, un 5-10% della loro potenzialità è già per la vita quotidiana più che sufficiente. Quindi i muscoli diventano ipotrofici, non sono più abituati, e quando si tenta di fare un allenamento alla forza, io sono molto d'accordo con l'ascoltatore, compaiono dei dolori, si hanno dei fastidi e quindi una persona quasi si spaventa. Se non c'è un bravo istruttore che ti guida, che ti porta pian pianino a recuperare, certo, la forza, uno si spaventa e non lo fa più. Tu lo fai, Deborah, in palestra? Sì, no, io devo dire che a me è sempre piaciuto molto andare, però ad un certo punto ho trovato un istruttore che ti ha detto, Deborah, ma più che dire, faceva muscoli, delle cose che mi piacevano molto e devo dire che è stata una gran motivazione. Sì, assolutamente. Beh, piano allora, ti ha conquistato. No, no, no, è un amico, fitness, è un amico, lo saluto, fitness, Matteo, è strafidanzato, conosco, quindi non è, però devo dire che ha fatto dei corsi che andavano proprio perfettamente bene per me e mi ha motivato. Ecco, ti ha convinto di testa, sì, che è quello che è un po' il cavallo di battaglia del professor Martelli. È anche vero che poi il fisico sente il benessere. Io adesso sono al punto che se non vado in palestra mi viene proprio il, come si dice alla marchigiana, il nervoso. Esatto. Anche a Milano. Il nervoso al maschile. Allora, come in tutte le palestre si vedono persone più o meno atletiche, perché poi in questo periodo, quando cominciano per andare a scolpirsi un po' in vista dell'estate, ovviamente vediamo tutte le forme e anche tutte le età, anche tra i risparmiatori, tornando un po' ai temi del Salone del Risparmio, ci sono profili diversi che riguardano il modo di pensare. C'è chi pensa in modo più veloce e chi invece in modo più lento, o forse tutti abbiamo entrambi questi aspetti ma in misura differente. Professor Martelli, come influisce questo modo di essere nel modo di risparmiare? Si nasce o si diventa veloci o lenti nelle scelte di investimento, che in realtà richiedono però tutto il tempo necessario, no? Non possiamo prendere delle decisioni rapidissime. Esatto, serve un equilibrio, diciamo così. Noi abbiamo due sistemi di pensiero, uno veloce che è sempre automatico, sempre attivo e che consuma poche energie, nella sostanza è quello che ci serve quando decidiamo di aprire una porta, sappiamo come funziona una porta, non dobbiamo stare a pensare come aprirla. L'altro invece è un po' più lento, più laborioso, che si accende su richiesta e che ci stanca facilmente. Se dobbiamo eseguire una moltiplicazione complessa, magari la sappiamo fare, anche a mente, però richiede molto tempo, oppure dobbiamo guidare nel traffico, dobbiamo prestare attenzione a molte variabili, no? Da tenere sotto controllo. Quindi chi prevale delle due? Beh, questo è un bel dilemma. Tendenzialmente e in linea generale possiamo dire così, nel 70% dei casi è il sistema veloce che ha la meglio, e questo tutto sommato ci avvantaggia anche, perché risparmiamo energia e siamo più freschi. Tuttavia, che cosa succede? Il vero problema è quando ci sono delle situazioni di conflitto, no? Queste situazioni quando è che si verificano? Pensiamo al caso di un illusionista che fa sparire il cosiddetto coniglio. Noi sappiamo che un coniglio non può sparire razionalmente, ma da un punto di vista, no, un po' così emotivo, qualcosa non ci torna. E usciamo comunque dallo spettacolo sempre con questo cruccio, no? Ma come ha fatto? Sì. Quindi, ma dove è finito? Un po' come succede con i risparmi quando si volatilizza, certo, no, professore? No, tra l'altro, a proposito di velocità o fretta, io direi anche di dare, se è d'accordo, questo suggerimento ai nostri ascoltatori: diffidate da quel consulente finanziario che vuole farci sottoscrivere un prodotto di risparmio e di investimento in tempi rapidissimi, perché in realtà il bravo consulente è quello che ci dà tutto il tempo necessario per prendere una decisione, e se spinge per una scelta perché dice questo prodotto magari scade in banca, è forse l'occasione giusta per dire di no a questa opportunità, no? Che ti d'accordo? Esatto. Certamente consulenti che premono per la firma, forse bisogna un po' capire già il motivo. Già lì ci devi insospettire. Tuttavia bisogna anche pensare questo, che le persone in generale, indipendentemente che si parli di decisioni in campo finanziario o in campo sociale, non sono abituate e non, soprattutto non vogliono prendere molte decisioni. Quindi quello che dico sempre, che consiglio sempre, è prendere un'unica decisione valida, certo, che duri per un periodo medio-lungo. Cara Nicoletta. Dottor Respizzi, però se il modo di pensare differenzia i risparmiatori, come anticipava Deborah, io penso che anche la struttura fisica differenzia, condiziona, se ad esempio, anche nella scelta dell'attività sportiva, anche per cercare un allenamento giusto proprio per la nostra costituzione fisica, oltre per quello che vogliamo ottenere. Se io quindi le dico pera, mela, clessidra, velocemente, perché questo per lei è proprio un pensiero rapido, che cosa pensa? Dunque, c'è da dire che la panza, come dice l'uomo di panza, che sembra che sia una bella cosa, è il peggio che c'è sostanzialmente, sì, perché il grasso che si deposita sull'addome è quello più pericoloso, quindi quelli che hanno il pancione non vanno assolutamente bene. Il grasso invece che si deposita sui fianchi, cioè sulla pera, che è tipicamente femminile, ci è piace, molto meno pericoloso. No, ma è molto meno pericoloso, sì, anche sì, addirittura. Sì. È un grasso buono, però grasso non buono, deve allargarsi a dismisura. Ecco, appunto, poi dipende dai volumi, naturalmente, certo, come sempre. Però la cosa importante è cercare di ridurre il più possibile il grasso addominale. Certo. Anche perché la signora che ha grandi fianchi spesso c'ha anche grande panza, anche lei evidentemente, quindi è una cosa che si rincorre. Ma noi possiamo dire, poi c'è la forma clessidra, la forma un po' a rettangolo. E io mi guardo. Certo. Allora, noi possiamo dire ai nostri ascoltatori, prima delle informazioni sul traffico, diteci un po' che forma siete e il dottor Respizzi vi dirà che cosa fare per mantenervi in forma o per recuperare la forma. Assolutamente. In tempi non brevissimi, ma insomma stiamo guardando un pochino in là, passare, la prova costume. Per passare da un frutto ad un altro, dice. Da un frutto, ad un, frutto ad un altro, un bell'ananas, insomma. Io intanto volevo, se mi permetti, prima di andare in pausa, salutare Antonio Caglielli, che è un amico di Cuore Denari ed è l'autore di uno spettacolo che gira in tutta Italia che si chiama Brutti come il debito, ed è uno spettacolo di educazione finanziaria molto divertente, molto ben fatto, che ci scrive su Facebook: mi piace da impazzire fare e far fare la ginnastica finanziaria, giocare a spostare le nostre spese e gestire meglio il bilancio familiare. Un bel gioco che tiene in forma il portafoglio, il nostro umore e il nostro benessere. Lo sposiamo. Antonio è già sposato, ma non importa, è virtualmente a Cuore Denari. Perfetto. Allora, okay. Andiamo, sono già pronti da Milano, dalla regia, per i suggerimenti per chi è in viaggio. Andiamo. Andiamo. Cuore e Denari. Muoviti, muoviti. E allora muoviti, muoviti. Comincia a muoverti, muoviti. E allora muoviti, muoviti. Oh yeah. Allora, 800 24 0024, muovetevi a chiamare per chiedere il consigli ai nostri esperti. Naturalmente vi invitiamo a mandarci in un tweet la vostra scelta risparmiosa, quello che avete deciso di fare nell'ultimo mese per risparmiare qualche soldino. 800 24 0024, siamo qua al Salone del Risparmio di Milano, all'Università Bocconi, insieme a due esperti, il dottor Respizzi e il professor Martelli, che siete un po' gemelli separati alla nascita, perché avete molti punti di incontro. Risparmio, attività fisica, infatti sono entrambi aspetti della nostra vita che per funzionare hanno bisogno di allenamento. Allora abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori di raccontarci se sono sportivi per necessità, quelli che presentano, ad esempio, stanno pensando alla prova costume e quindi puntano ad ottenere il risultato nel breve termine, e invece se sono sportivi per passione, quindi investono in un'attività sportiva non solo per mantenersi in linea, ma per goderne i benefici psicofisici. Qual è l'attività migliore per dimagrire in tempi rapidi, per bruciare quindi grasso e superare la prova costume? Mi faccio un distinguo tra uomini e donne, mele, pere, clessidre, bananine. Dottor Respizzi, vada. Dunque, la costituzione corporea è comunque una caratteristica tipica delle persone, per cui se una persona ha un certo tipo di forma non è che diventa tutt'altra persona. Sì, che Deborah non può diventare come Nicoletta, e viceversa. E viceversa. Ecco, però se noi riusciamo ad incidere con un'attività, in questo caso di tipo aerobico molto intensa, ad esempio la pancia si riduce di sicuro. Mentre invece, se io voglio ridurre la parte, diciamo, dei fianchi, dei glutei, devo fare molto più attività di tipo forza, anche ad esempio facendo lo stepper, facendo le scale, facendo questi esercizi che stimolano molto i muscoli glutei e i muscoli degli arti inferiori. Quindi sono proprio due indicazioni diverse che un bravo preparatore deve ovviamente gestire con il nostro paziente, con il nostro, non paziente, ma in questo caso praticante. Possiamo dare anche delle quindi abbiamo fatto questo distinguo che per noi è utile, come tempi di allenamento, di intensità, di sforzo, come possiamo dire? Io voglio la ricetta, non so, dottor Respizzi. Si calcola che bisogna fare almeno mezz'ora di attività intensa al giorno, di attività aerobica intensa al giorno, vuol dire una camminata veloce. È quella camminata in cui dopo un po' ti manca il fiato. Quella per far andare giù la pancia. Esatto, per far andare giù la pancia. Andiamo invece al gluteo, ecco, e alla io coscia. Io direi che lì ci vuole un bel po' di piani di condominio. Se uno abita al sesto piano è molto avvantaggiato. Abbiamo anche un suggerimento della nostra ascoltatrice, Bruna, che ci racconta. Dice: per avere un sedere da bronzo di Riace, cavigliere alle caviglie da 2 kg con esercizio gamba all'indietro, che sono un po' appunto quegli esercizi estensione che facciamo in palestra, si chiama estensione, esatto, dell'anca, con questo il peso gesto, attaccato, assolutamente, questo gesto stimola molto i muscoli glutei, sì, che sono tre, e però la il rinforzo del muscolo gluteo non è detto che riduca il grasso che ci sta sopra, quindi contemporaneamente devo fare anche dell'attività aerobica per consumare il grasso, perché il grasso sono i nostri depositi, è la nostra benzina che abbiamo nel serbatoio. Qui bisogna consumare assolutamente, quindi bisogna abbinare a lavoro tipo quello che diceva l'ascoltatrice, che è l'estensione dell'anca indietro con un piccolo peso, o le scale come dicevo prima, o lo stepper, anche un'attività aerobica intensa. Allora, ricordiamo anche che l'attività fisica sarà uno degli indicatori che verrà analizzato, dottor Respizzi, lo faremo a mezzogiorno anche in diretta per i nostri ascoltatori o per chi si presenterà qua alla postazione per misurare l'indice di salute. Noi oggi vi diremo, il dottor Respizzi ci farà fare due calcolini molto semplici e verrà fuori un numeretto, dottor Respizzi, e quello sarà il nostro indice di salute. È molto lungo questo test, perché se no lo facciamo fare a Duccio Martelli immediatamente. Certo, dopo a mezzogiorno glielo facciamo fare e diciamo anche che per i visitatori del Salone del Risparmio c'è anche Humanitas, la postazione di Humanitas che è al piano terreno. Come si dice, al piano sottoterreno, meno uno. C'è la professoressa Lucini che vi calcola l'indice di salute, salute, performance e benessere dalla teoria alla pratica. E magari immagino che poi il risultato di questo test possa rappresentare una spintarella per molti a cambiare abitudini. Allora, a proposito di spintarelle. e non parliamo di quelle non tanto, come dire, eticamente corrette, no? Parliamo invece di un altro tipo di spintarella, qualche cosa che succede che ci dà un po' lo stimolo a cambiare anche il nostro modo di vedere determinate questioni. Professor Martelli, a proposito di spintarelle e mondo del risparmio, quali sono quelle che possono indurre una persona a guardare in modo diverso la sua capacità di risparmiare, la sua filosofia appunto di gestione del denaro, e da chi accettiamo anche queste spintarelle? Allora dobbiamo considerare in primo luogo che il nostro ego tendenzialmente gioca purtroppo contro di noi, perché è difficile ammettere anche errori evidenti che tutti noi commettiamo. Quando è che abbiamo bisogno soprattutto di una spintarella? Mi riallaccio a quanto ha detto Nicola, quando è più facile cadere in tentazione, ossia mancanza di motivazione, non solo la palestra, il mio ovviamente è un esempio, ma ci sono tantissimi altri esempi, l'inizio delle diete, no? In tutte queste situazioni dove l'assenza di motivazione può portare ad un comportamento scorretto, abbiamo bisogno di un personal trainer o comunque di un dietologo, per fare un esempio. Oppure, quando non sappiamo che cosa scegliere, siamo in un ristorante in un paese straniero, guardiamo il menù, non riusciamo ovviamente a leggere le portate, probabilmente facciamo riferimento a quello che ha preso il nostro vicino o chiediamo consigli al cameriere. O da ultimo sarebbe opportuno chiedere un consiglio quando dobbiamo prendere decisioni particolarmente importanti nella nostra vita, ossia quando la posta in gioco è talmente alta che non possiamo sbagliare. Tipo il tema di questo salone è anche la previdenza complementare oggi, che ancora fa fatica a decollare in Italia, perché appunto la contestazione generica che viene mossa, non abbiamo la capacità di arrivare alla fine del mese, figuratevi se riusciamo a farci la pensione di scorta. E quindi in questo caso quale spintarella sarebbe necessaria? In questo caso, poiché l'inerzia gioca, come abbiamo anticipato prima, un ruolo contrario rispetto alla direzione che dobbiamo prendere, occorre che qualcun altro ci aiuti. Questo qualcun altro tendenzialmente dovrebbe scegliere la cosiddetta opzione di default, ossia nel caso in cui il consumatore, l'investitore o un individuo più in generale non fa nulla, la sua posizione arriva a quel livello, va in quella direzione. Un tipico caso che abbiamo anche tutti noi visto nel recente passato è ad esempio il TFR, trattamento di fine rapporto. Esatto, dove alcuni anni fa c'era l'opzione se lasciarlo in azienda oppure... Certo. Il semestre del silenzio assenso, guardi, me lo ricordo molto bene, abbiamo fatto decine di puntate. Perfetto, quindi, da un punto di vista diciamo più teorico, ma che poi teorico non è, l'opzione di default qual è? Se il mio cliente, il mio investitore, il mio lavoratore in questo caso... non dichiara espressamente la destinazione del proprio TFR, il TFR rimaneva in azienda. Certo, è vero. E questa è stata una scelta presa diciamo dall'alto. Quindi tendenzialmente chi dovrebbe aiutare le persone che in questo caso sono inconsapevoli, perché magari non sono ben consci dei rischi a cui vanno incontro, dovrebbe essere a livello decisione di tipo politico. Lei pensa che la decisione di default più idonea sarebbe stata quella di dirottare di default il TFR in uno strumento di previdenza complementare, in un fondo pensione? Allora, questa scelta sicuramente avrebbe favorito lo sviluppo della previdenza complementare. Ci sono ovviamente pro e contro in tutte le decisioni, certo, quindi però... non c'è una decisione migliore delle altre. Quello che conta è scegliere un'opzione di default che sia particolarmente valida. E che renda partecipe soprattutto una scelta il lavoratore. Ce la facciamo a sentire, sì, un ascoltatore? Sì, anche perché i nostri ascoltatori che hanno scelto di rimanere con noi e di chiamarci, vogliamo accontentarli. Maria Teresa, Giuseppe, Massimo, Ivana. Allora, esatto, credo che fossi in attesa da un po' Maria Teresa da Bergamo. Buongiorno. Pronto, buongiorno. Mi chiamo Maria Teresa, complimenti. Siete delle ottime compagne di camminata casalinga. Oh, Maria Teresa, grazie. Niente, io volevo raccontare la mia esperienza. Da giovane andavo in palestra sempre, costantemente, mentre lavoravo anche. Poi per motivi di salute ho lasciato il lavoro e ho dovuto anche lasciare la palestra perché erano più volte dovevo impiccare, tra virgolette, sì. E quindi c'era la spesa e non c'era, sì, il rendimento, diciamo, fisico. Al che, niente, sono diventata amante della camminata, sia in città, sì, o fuori città. E poi quando, per motivi di salute, che soffro di nevralgia del trigemino, sono celiaca, ho un sacco di problemi, insomma, sì, se non riesco a uscire per il freddo, che mi concedo un quarto d'ora di buona pedalata in casa con la cicletta che ho recuperato da mie genitori. Fantastico. Guardi, Maria Teresa, noi adesso dobbiamo andare a dare la linea al GR. Vedo il dottor Respizzi super tutto soddisfatto. Contento, a tra poco con Giuseppe, Massimo e Ivana. Cuore e denari. Ore 20. 7 maschiacci brutali fuggono dai loro comodi uffici e si ritrovano sul campo di battaglia. Cioè, ma voi veramente il calcio vi ha proprio tarlato il cervello, ma fin da piccoli, eh? Ma cosa viene in attacco che ci scopriamo? Ma che ci siamo messi d'accordo? Lo fanno tutti, anche i più grandi. A una certa età si va dietro. L'ha fatto Di Bartolomei, Di Biagio, Matteus, Scandellari, no? E chi è sto Scandellari? Il libero della bovina carne. Oggi ci stiamo allenando qui al Salone del Risparmio. Continuate a scriverci in un tweet quali sono i vostri allenamenti quotidiani in materia di risparmio. L'account è @cuoredenari. Ma noi vogliamo fare anche un tipo di altro allenamento che risparmia un sacco di problemi. Parliamo di attività fisica che ci fa bene, ma dobbiamo anche imparare a risparmiarci gli eventuali rischi. E quindi facciamo un appello agli scapoli e ammogliati, mm-hmm, che giocano una volta alla settimana, poi vanno a mangiarsi la pizza, la birra, esatto, ne siamo molto felice. E qui per fare un appello e dire scapoli, ammogliati, incontratevi, giocate, ma fatelo con la testa, perché poi se vi fate male rompete le scatole a noi. Anticipo che già Massimo da Milano è capitata una cosa del genere, poi lo sentiremo. Abbiamo convocato, sì, Deborah, di tutti i convocati. E abbiamo qua con noi Carlo Genta. Esatto, possiamo dirlo, il giornalista più bello di Radio 24, secondo me. Dai, grazie. È così, anche perché sei allenatissimo. Per quanto ci eravamo messi d'accordo non mi ricordo più. Dopo me lo ricordo. No, parliamo della tua esperienza con il calcetto piuttosto. Sì, calcetto, gioco da quando ero bambino, calcio a 5 intendiamo. Mm. Secondo me è lo sport più pericoloso del mondo, il festival dei crociati. Soprattutto quando arrivi a una certa età non ti alleni. E dici, boh, vado a giocare con gli amici una volta a settimana, partono i crociati come coriandoli. Questo te lo garantisco. Allora? Ma qui abbiamo dei luminari, esatto, loro lo sanno benissimo. Metto a confronto la tua esperienza con quella, o quantomeno la tua considerazione, con quella di Massimo da Milano, che Massimo, super giù, ecco, si è trovato, no, in una situazione di questo tipo, ci dica. Sì, mi sono trovato, sì. Allora, di base, io ho 49 anni, sono sempre stato sportivo, ho scoperto il running negli ultimi 2 anni e devo dire che mi si è aperto un mondo completamente diverso, una cosa fantastica, lo consiglio al mondo, veramente. Il problema è che ho iniziato qualche anno fa a giocare a calcetto, giocavo abbastanza di frequente, ho avuto un contrasto di gioco, diciamo 4-5 anni fa, e mi si è gonfiato il ginocchio, comunque non ho dato poi peso perché sono andato a posto dopo una settimana. Ogni volta che ho ripreso a giocare a calcetto... praticamente il medesimo problema, certo, quindi ho smesso. Massimo, mi scusi, sì, no, perché sono rimasta colpita dalla sua proprietà di linguaggio sportivo. Ha avuto un contrasto di gioco, Carlo, che ne, sì, pensi? Hai sentito? È un contrasto di gioco, come dire, è andata a sbattere praticamente con un altro collega che giocava con lui. Sì, sì, esatto. Andata a esattamente, cioè tradotto in termini finanziari, in termini, diciamo, femminili, è così. Perché... E allora, comunque Massimo vuole sapere, a questa destrutturazione del legamento, sentite anche io stamattina come mi cimento. Dottor Respizzi, che cosa gli è successo? Destrutturazione è un termine non tanto medico, ma probabilmente si è rotto il crociato, perché in questi contrasti succede che rimane magari bloccato il piede al terreno, la persona fa una rotazione con tutto il peso del corpo, soprattutto appunto se non è molto allenata, non è molto preparata, si sente uno stack e si rompe il legamento crociato. E, questo è un dato molto comune, come diceva giustamente Carlo Genta prima, perché circa due giocatori su 10 si rompono il crociato. E lei, quindi, non butta questi dati a caso, non solo perché è una persona seria, ma qui abbiamo anche catturato il dottor Boldrini, che ha svolto un'indagine per l'Isokinetic, è un medico esperto proprio in riabilitazione, e ha fatto un po' una fotografia degli scapoli ammogliati quando si trovano a calcetto, che giocano a calcio a 5, ma c'è anche il calcio a 7. Cosa fate? Calcio a 7, che è anche più divertente, secondo me. Anche a 11. Campo, a 11, però, a 11, non ce la faccio. Trovarne 22 con le mogli diventa un problema, però a 7 si può fare, è più divertente, il campo più largo, secondo me anche minori rischi. Però io sono convinto di una cosa: per giocare è chiaro che correre, non so, il running sarà bellissimo, ma per me è una rottura di scatole terrificante che io pratico, ma per giocare una volta a settimana bisogna essere allenati a una certa età. Dottor Boldrini, buongiorno. Buongiorno a lei. Sì, in effetti quello che abbiamo cercato di fare è capire meglio la realtà del calciatore, del calcetto, insomma, una volta a settimana, o meglio, di quelli che non fanno parte delle società sportive, perché proprio la FIFA ci dice che l'85% delle persone che giocano a calcio, e sono molte, in Europa si stima il 7% della popolazione, sono persone che non sono appartenenti a società sportive, e questi sono quelli che poi giocano a livello ricreazionale e divertimento. E quindi noi a Milano abbiamo cercato di fare un'indagine per capire quanti sono innanzitutto questi giocatori e poi farne un identikit. Quindi abbiamo identificato le strutture sportive nell'area del comune di Milano, sono circa 70, e si contano più di 270 campi che vengono affittati appunto per queste attività ricreazionali, e la stima è di circa 45.000 persone che a settimana giocano nel comune di Milano a calcetto o calcio a livello ricreazionale. Appunto, calcetto o calcio? Nel questionario che gli abbiamo somministrato si è visto che il 70% giocano effettivamente a calcetto, quindi calcio a 5 è quello che va per la maggiore. Hai capito? E chissà quanti di questi 45.000 si trasformano in crociati frantumati, dottore? Esiste anche una statistica su questo, in questa destrutturazione del crociato? Noi abbiamo iniziato a raccogliere dei dati, siamo riusciti adesso a raccogliere più di 800 questionari e comunque stiamo andando avanti in questa indagine perché i numeri sono molto, molto ampi. La cosa sensazionale è che la gran parte delle persone intervistate giocano a calcio da più di 20 anni, quindi oltre il 35% del campione intervistato giocano a calcetto o comunque a calcio da più di 20 anni. Questo significa che lo fanno da una vita. E quando vai a indagare quali sono i traumi e in che percentuale, si vede che la caviglia in realtà è al primo posto. Il 50% delle persone hanno avuto una distorsione, un trauma di caviglia, e il 25% almeno di ginocchio. All'interno di questo ci sono frequentemente i crociati, per cui in realtà non è che tutti si rompono il crociato, per fortuna, però è sicuramente un trauma molto frequente. Uno su quattro comunque. Insomma, ma la caviglia si aggiusta alla svelta, il ginocchio è più un problema. Diciamo che la lesione del crociato crea un recupero, un problema, richiede un recupero più lungo, però anche le lesioni di caviglia possono poi dare delle problematiche, per cui ogni trauma porta dietro. Se non ben curate, diciamo, ecco, quindi, se non curate bene. Noi siamo in attesa di un prossimo ospite che viene a trovarci, naturalmente facciamo un cambio, ruotiamo le poltrone. Dottor Boldrini, quindi, a scapoli ammogliati, che dice in sostanza? Bisogna riscaldarsi, e la verità è che bisogna prepararsi e quindi allenarsi, ma soprattutto fare bene il riscaldamento. La FIFA ci dice che se si segue un programma di riscaldamento che è stato identificato in un programma che si chiama 11+, si riesce a ridurre e dimezzare i rischi di infortuni. Per cui e ci sono tanti modi per fare riscaldamento. Sì, assolutamente. Sì, tanti modi, lo sappiamo tutti, qua. Noi si arriva lì, ci si cambia. Si gioca dopo 30 secondi e si gioca un'ora, si finisce, si va a bere una birra e mangiare 8 pizze, quindi va bene. Alimentazione, quindi la perfetta dell'atleta, diciamo, è quella così. Del giocatore di calcetto, esatto, cioè, la dieta del giocatore di calcetto è questa. Anche perché deve dimenticare la moglie quando torna a casa, questo sì. Abbiamo ancora i nostri ascoltatori che ci aspettano, Marisa da Torino, Ivana da Salerno, Giuseppe anche da Salerno. Marisa, lei ha un marito che gioca a calcetto? No, No, ma stavo ridendo perché come al solito finisce sempre che poi vanno alla pizza. Sono creature semplici, Marisa, si divertono poi, così. Poi Marisa, quelli bravi tornano a casa subito dopo la pizza, gli altri no. Non sanno se però ci trovano, Marisa. Guarda caso, tornano sempre molto tardi. Marisa, ma perché si gioca fino a tardi? Marisa, sì. La sua domanda invece riguardava le braccia. Sì, le braccia, ma prima volevo dire una cosa, se mi permette, Nicoletta e Deborah. Care dottoresse, mi piace tantissimo la ginnastica mentale che mi fate fare con il vostro aver messo insieme e con le analogie che trovate tra benessere e risparmio. Cioè, per me è meglio della Delle due delle parole incrociate. Adesso diranno così, adesso faranno così. E speriamo poi sempre di stupirle, di interessarle. Intanto Marisa, lei ci ha fatto un complimento che ci fa molto piacere. Marisa, vuole fare la domanda così lasciamo spazio a Ivana anche? Certo. Allora, io vado per step, appunto, le braccia, perché la prima cosa, prima del costume, io sono per il timore di mettermi il vestito senza maniche. Sì. Quelle braccia che da un perché certo le braccia punto... ecco, c'è un po' la cosa del che sballonzano un po', no? La sindrome del salino, perché va un po' giù il muscolino. Dottor Respizzi, qua lei ci ha già detto la pancia cosa fare, la coscia per sfilarla, il braccetto molle? Braccetto molle ovviamente la parte cutanea, sottocute, non è che si può fare più di tanto, bisogna rinforzare il muscolo tricipite che è questo qua dietro, con degli esercizi ancora una volta con i pesi, ad esempio mettendosi lateralmente, prendendo un pesetto, una polsiera e fare questo tipo di esercizi. Oppure la bottiglia dell'acqua, va benissimo anche le bottiglie, le sei bottiglie del supermercato sono perfette da sollevare e abbassare. Bene. Sono perfette. Quindi Marisa, forza con le braccia. Andiamo a Ivana. Buongiorno. Buongiorno, sono Ivana da Salerno. Eccoci qua, che si è candidata per raccontarci che abitudini nuove ha adottato nelle proprie scelte quotidiane per risparmiare un po', Ivana. Passiamo, noi in realtà sembra che passiamo, che saltiamo di palo in frasca, in realtà appunto come anche riconosceva Marisa, cerchiamo di avvicinare quanto più possibile i temi economici e quelli di benessere. Ci racconti un po', vediamo se le possiamo mandare un libro di Cuore e Denari. Ah no, io compro solo abbigliamento economico e di marca buona e di buona qualità. Diciamo faccio la colorazione a casa e compro solo le cose che mi servono, scarpe buone e di buona qualità, di basso costo. Senta Ivana, per introdurre il prossimo ospite le devo fare una domanda antipatica, ma devo farla per forza. Lei e la sua pensione, ci sta pensando? Adesso no, perché io sono ancora disoccupata, quindi mia madre ha preso la pensione a 71 anni dopo aver messo tanti contributi ed è morta a 74, diciamo, meglio non pensarci. Poco. Ivana, grazie per la sua testimonianza. Fabrizio San Marco dell'Associazione Italia Camp. Salve. buongiorno. Devo buongiorno dirlo all'inglese o all'italiana? Italiana. Camp. Allora, abbiamo chiesto ad Ivana se sta pensando alla sua pensione. Lei dice no, perché sono disoccupata. Non è una contestazione poco diffusa in questo momento. A chi invitiamo, agli ascoltatori, a cui invitiamo appunto di pensare alla previdenza complementare, alla pensione di scorta, in molti dicono figuratevi, non arrivo alla fine del mese, come faccio a pensarci? Ecco perché anche in Assogestioni, al Salone del Risparmio, si parla di tutte quelle iniziative che possono divulgare quanto più possibile questi argomenti. Lei che cosa ci fa qua a Cuore Denari? Noi abbiamo avuto il piacere di lanciare questa collaborazione con Assogestioni rispetto ad una metodologia nuova che tecnicamente in inglese viene definita una call for ideas, cioè praticamente una grande richiesta rivolta a chiunque per presentare progetti e idee. E noi facciamo sì che chi ha una buona idea possa essere messo in contatto con chi ha il potere economico o finanziario di poter realizzare questa idea. Questa call for ideas voi l'avete lanciata a febbraio, quindi concretamente cosa avete fatto? Chi avete invitato ad inviarvi le idee sulla previdenza complementare? Abbiamo come associazione una collaborazione con più di 70 università, quindi questa call for ideas è stata sviluppata in tutte le università italiane e passando attraverso gli studenti, i docenti, i ricercatori, si arriva praticamente a tutte le famiglie italiane, perché lo studente è un viatico, è il modo per entrare in casa delle famiglie. Quindi cittadini di poter anche registrare, di poter anche leggere le proposte che magari normalmente non potrebbero arrivare, perché restano appunto il bar camp, che è la nostra metodologia, sono le chiacchiere che si fanno nel bar all'interno dell'università, il campus universitario, lì dove il professore è come lo studente, l'amico è come il docente, perché quello che conta è la qualità della buona idea. Certo, senta, non abbiamo molto tempo, fra un po' presenterete le idee che si sono aggiudicate le prime quattro posizioni, diciamo così. Qual è la sensazione che avete maturato appunto nell'ambito di questo, chiamiamolo così, concorso? Che cosa c'è bisogno di fare nel nostro paese per divulgare di più i temi sulla previdenza integrativa? Quindi qual è la sintesi anche di queste idee che vi sono arrivate? Certo, c'è bisogno di più comunicazione al passo con i tempi, c'è bisogno che le radio ne parlino, c'è bisogno che i social network ne parlino e che soprattutto gli strumenti di comunicazione riescano a raggiungere in maniera anche innovativa chi fino ad oggi non si era mai posto il problema e chi non conosceva il problema. E probabilmente c'è bisogno anche di inserire nelle normali e consuete relazioni industriali delle nuove aree di innovazione sociale, dove effettivamente si leggono meglio i bisogni e le esigenze delle persone. Un'ultima domanda prima di salutarlo, una domanda di concetto. San Marco, ma lei gioca a calcetto? Sì, ogni martedì alle ore 20 con un gruppo di amici. Con ammogliato scapolo? Prossimo nubendo, a ottobre mi sposerò. Incrociato come sta? Bene, fortunatamente ci aspettiamo. Perfetto, naturalmente. Nicoletta, ti passo la cuffia. Allora, gli auguri naturalmente al nostro ospite, mi raccomando, tenga alto il nome della squadra degli ammogliati, ma andiamo a Stefano da Milano, che con il calcetto ha qualche problema. Stefano, buongiorno, lei è sposato? Buongiorno, sì, sono sposato, sono abituale al calcetto il giovedì. Volevo fare una domanda ai vostri professionisti del settore, sì, o meglio dei crociati. Volevo chiedere, io ho un ginocchio che puntualmente ogni partita fa clac clac verso l'interno, Stefano, e poi entra e esce regolarmente. Ho fatto tutte Stefano, le ricerche. Stefano, stia a casa, ma posso dirglielo io? Stefano, ho provato anche io appoggio perfettamente la versione del nostro amato giornalista sportivo. Volevo chiedere come mai io ho fatto tutte le risonanze magnetiche del caso, il crociato sta benissimo, ma puntualmente ho una piccola distorsione ogni partita. Ho adesso preso un tutore, ma la cosa dottor Respizzi, non so se ha bisogno di un fisiatra o di un altro esperto, ma Stefano si propone. Assolutamente, quindi... siccome poi siamo anche dello stesso nome. Allora, caro Stefano, è probabile che lei abbia una modesta instabilità del ginocchio, cioè che il crociato ci sia, ma che sia un po' lungo. Per fare un esempio molto pratico, è come avere l'elastico delle mutande molle e le mutande vanno giù. È un po', vedi, è un po' hard. Ma che esempio eccezionale. Rende l'idea. Quindi è possibile che lei abbia un ginocchio un pochino lasso e che quindi facendo dei gesti un po' più intensi senta questi movimenti, perché la rotula si muove e perché il ginocchio, il femore e la tibia si muovono. Quindi questo piccolo gioco, che non vuol dire avere un ginocchio da operare, può essere pericoloso. Quindi ancora di più nel suo caso bisogna rinforzare molto i muscoli flessori ed estensori del ginocchio, cioè della coscia, quindi il quadricipite e quei posteriori. Mi raccomando. Come di palestra, come fa Carlo Genta. Forte, quadricipite forte e le mutande tornano a posto. Esatto, ecco, bravissimo. Sto palpeggiando il muscolo di... D'altronde è irresistibile, io Nico, ti capisco. Questo è il ginocchio buono, quello... Quello che è volato con la motocicletta è un altro. È veramente... Allora, di marmo. Giuseppe, buongiorno. Sì, Giuseppe da Salerno, mi sa che deve essere telegrafico, ma poverino ha aspettato tanto, ci dica. Allora, soltanto che è un all'aperto. Mamma mia, purtroppo. Allora, però sintetizzo io il suo messaggio, Giuseppe. Allora, qua non discutete tanto di palestre, dice lui. Ci sono tante associazioni che ci permettono di fare attività alternative, addirittura vita all'aria aperto. Lui sottolinea, per esempio, che i club alpini ci dà a Salerno, il club alpino me lo voglio vedere tutto qua. Ovviamente, ecco, mi avete dato dell'ignorantone, me lo merito e siamo a posto. Cara, allora, sì. A noi dobbiamo ritornare. La nostra a casa. Super avventura al Salone del Risparmio è terminata. Grazie ai nostri esperti. A tutti coloro che ci sono venuti a trovare al nostro stand. Fabio Cantadori, che ha avuto tutta la pazienza di stare con noi in questi tre giorni. Carlo Genta, che ritorna tra poco in onda. Esatto. A Laura Vanossi. Propongo uno scambio. Io faccio cuore denari e voi a te. Guarda, non lanciare questa sfida perché la perdi. È qualcosa di rivoluzionario. Dopo aver creato cuori e denari, noi siamo assolutamente in grado di fare tutti i convocati. Ma non ho dubbi. Imbattibili. Grazie, dottore Spinelli. Grazie a voi. Noi torniamo lunedì.